Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dalla Grecia, approvato ieri infatti in serata, in nottata, il piano di tagli, il pacchetto austerità, come si chiama in gergo, tagli da 13 miliardi e mezzo indispensabili per la Grecia per ottenere poi il pacchetto di aiuti da 31 miliardi e mezzo e salvare il paese dal rischio fallimento, altrimenti la Grecia non avrebbe liquidità per pagare gli stipendi. Scontri, manifestazioni, tra l'altro oggi oltre che di Grecia parleremo anche di Cipro, perché la Troica, ossia la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario e la Commissione Europea è arrivata anche a Cipro, chiede tagli per almeno 1 miliardo, che è tanta roba, a Cipro, e privatizzazioni, il taglio della tredicesima ai dipendenti statali, l'abolizione della scala mobile per gli dipendenti sempre statali a Cipro. E questo per quello che riguarda il fronte internazionale, che vede anche uno spread italiano risalire a 365 punti, quello spagnolo va a 447. Cos'è successo? C'è stata un'asta spagnola di bonus di BTP con scadenza 2015-2018-2032, i tassi in calo sulle scadenze più brevi, in rialzo sui BTP a 20 anni, e il BTP spagnolo a 10 anni adesso rende il 5,83%. Di questo parleremo anche però delle province italiane, sono in rivolta per gli accorpamenti, per i tagli. Mi era sembrato, devo dire con un po' di malizia, un po' troppo silenziosa l'accoglienza della riorganizzazione delle province, conoscendo quanto in questo paese sia difficile tagliare sedie e poltrone. Non ce l'ho con le province, però insomma è inutile in campagna elettorale continuare a dire che vanno abolite o ridotte le province, poi quando si tenta di fare degli accorpamenti, per carità, limitati, non sempre forse corretti, ecco che arrivano gli scudi e ci si indigna. Parleremo poi nella seconda ora del programma invece della Cina, perché in questi giorni è chiaro che tutta l'attenzione fosse legata agli Stati Uniti, ma a parte il fatto che nell'agenda di Barack Obama al primo posto nella politica estera assieme alla vicenda Iran c'è sicuramente il rapporto con la Cina. E non è un mistero che la nomenclatura del Partito Comunista Cinese preferisse Romney. Obama è considerato meno affidabile, considerato forse anche troppo vicino a Taiwan. Ma la cosa importante è che si sta svolgendo il congresso del Partito Comunista Cinese, il 18° congresso. Questa notte, erano le 4 di mattina in Italia, è stato aperto dal Presidente della Repubblica, nonché segretario del Partito Comunista Cinese Hu Jintao, il quale ha detto: la corruzione può provocare l'affondamento del partito e dello Stato cinese. La corruzione in Cina, è endemica, ha aggiunto Hu Jintao. Quindi il tema della corruzione è ben presente anche in Cina come tema, come problema e come rischio che faccia saltare addirittura lo Stato cinese. Hu Jintao si è dato un obiettivo comunque per il 2020, raddoppiare il PIL cinese, quindi raddoppiare quello che è il prodotto interno lordo cinese entro 2020, e ancora un nuovo modello di sviluppo che porti anche al raddoppio del reddito medio della popolazione. Immaginate se in Italia si ponesse l'obiettivo da qua al 2020 di raddoppiare il reddito medio. Io metterei la firma per mantenere in termini reali il reddito medio. Ancora nello stesso periodo, ha aggiunto Hu Jintao, verrà assicurato che tutta la popolazione sarà coperta dall'assistenza sanitaria pubblica di Cina e anche in parte Stati Uniti. Parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve a partire dalle borse. chiaramente c'è anche la pagina di Facebook di Focus Economia per chi volesse interagire via computer. Le borse, dicevamo. Allora, per quello che riguarda Milano, ma devo dire anche Francoforte e Londra, c'è un calo di uno 0,49% su Milano, dello 0,25% su Londra e dello 0,33% su Francoforte. Parigi invece è positiva di uno 0,24%, molto bene. Oggi A2A più 6,30, Lottomatica più 3,60 come Azimut, Buzzi Unicem più 1,30%, Mediobanca più 0,90. Fronte opposto, Autogrill meno 3,90, Mediaset meno 3,5, Saipem meno 3, Finmeccanica meno 2,70 come Pirelli, il 2,40 lo perde Monte dei Paschi, il 2% Prismian, il 2% la Popolare di Milano ed Enel, l'1,80% il calo di Yasorin, l'1,60 quello del Banco Popolare, l'1,20 il calo di Terna e di Ferragamo, l'1% quello di Ubibanca e della Banca Popolare Emilia Romagna. Oro fermo a $1,718 l'oncia, petrolio in rialzo a $85 il barile. Tra l'altro, in tema di energia, il tratto del South Stream, del gasdotto che doveva collegare anche la Grecia e il sud Italia, è stato cancellato. Lo ha annunciato Leonid Kuzhunkov, che è il capo del progetto della Gazprom, spiegando che non è economicamente sostenibile visti gli attuali consumi di gas e a causa anche di progetti alternativi. Quindi resta immutato il percorso Nord, che porterà il gasdotto South Stream ad arrivare in Italia via Tarvisio, quindi attraversando l'Est Europa al confine di Tarvisio e poi in Friuli Venezia Giulia. Cerimonia di avvio dei lavori prevista per il 7 dicembre. Banca Centrale Europea oggi ha lasciato i tassi invariati, fermi allo 0,75%, ha annunciato che arriveranno una nuova serie di banconote dell'euro, a partire dal biglietto da 5 euro. Mario Draghi, il presidente della BCE, ha detto che sostanzialmente la crescita nell'area euro resta debole e i rischi per l'economia restano comunque al ribasso. Economic activity in the euro area is expected to remain weak. La crescita economica dell'area euro rimane debole, sebbene venga sostenuta dalla nostra politica monetaria, e la fiducia dei mercati finanziari sia visibilmente migliorata dopo il varo del piano di acquisti titoli OMT. Monetary transactions, OMTs. Al contempo, l'inevitabile processo di aggiustamento dei bilanci del settore finanziario e di quello non finanziario, oltre all'elevata incertezza, continuano a incidere negativamente sulle prospettive economiche. È importante che i governi continuino a migliorare il clima di fiducia, proseguendo sulla strada del risanamento dei conti e proseguendo nella ristrutturazione del settore finanziario. La BCE rimane fortemente impegnata a proseguire la sua politica monetaria e ad adoperarsi perché i benefici si trasmettano anche all'economia reale. Siamo pronti a procedere ad acquisti di titoli di Stato attraverso l'OMT per evitare che si verifichino scenari estremi, riducendo così le preoccupazioni per un possibile materializzarsi di forze distruttive. E dicevo, arriveranno anche le nuove serie di banconote, a partire da quella da 5 euro. Giustamente, a mio avviso, alcuni ascoltatori ci chiedono, ma non lo sappiamo, se verrà confermata la banconota da 500 euro. Penso proprio di sì. Sono d'accordo che è una banconota un po' strana, mettiamola così. C'è chi nel passato ha detto che è una banconota che serve soprattutto a chi deve esportare i capitali, a chi deve alla criminalità organizzata. Io non so quanti di voi abbiano la necessità impellente della banconota da 500 euro, che chiaramente permette di portare grandi capitali in valigette molto piccole, insomma, mettiamo così, dai. Le banche e le piccole imprese, ci chiede un ascoltatore. Chiudiamo però con Draghi, poi arriviamo lì. Mario Draghi ha detto che le riforme strutturali sono inevitabili, le stime sull'economia europea saranno riviste poi a dicembre, i prestiti alle famiglie, si riferisce sempre all'area euro, non alla sola Italia, ci mancherebbe, sono rimasti invariati a settembre, che la Banca Centrale Europea è pronta ad agire, ma la palla resta ai governi. Draghi però ha anche detto di non poter garantire alla Spagna, prima di dare un prestito alla Spagna stessa, di non poter garantire che manterrà i tassi di interesse sui suoi titoli di Stato al di sotto di un certo livello. Perché questo? Perché la richiesta arrivava dalla Spagna stessa. Il presidente infatti della Spagna, Mariano Rajoy, aveva chiesto una garanzia di questo tipo, e quanto alla Grecia invece ha detto ha fatto passi in avanti importanti. E veniamo ai prestiti delle banche, visto che è tornato di attualità. Oggi la Banca d'Italia ha reso noto che, questo lo dico in maniera molto tranquilla, che è calata, anzi è aumentata la flessione nei prestiti, ossia a settembre sono diminuiti di quasi un punto percentuale rispetto a un anno fa e sono calati anche rispetto ad agosto. I prestiti alle società non finanziarie sono scesi del 3,2%, crescono leggermente i prestiti alle famiglie più 0,1% e in particolare sono calati i prestiti alle piccole e medie imprese. La produttività, non ci sono notizie, nel senso che questa sera vi sarà un incontro di, anche di carattere tecnico, c'è stato nel pomeriggio, ma questa sera dicevo un incontro tra sindacati e imprese. Il ministro Fornero ha detto sarà certamente una buona notizia se questa sera le parti sociali arriveranno a un accordo sulla produttività. Però mentre si discute sull'accordo sulla produttività lancia l'allarme il segretario della UIL Angeletti, che dice attenzione, nel 2013 avremo 3 milioni di disoccupati. Arriveremo a 3 milioni di disoccupati nel 2013, non nel 2014. Un milione di posti di lavoro in meno negli ultimi 3 anni. È una situazione catastrofica, perché credo che bisogna tornare indietro di qualche decennio per avere 3 milioni per ricordare 3 milioni di disoccupati in Italia. Della Guardia di Finanza che si è messa a indagare, devo dire finalmente, i negozi compro oro. Non abbiamo niente contro i negozi compro oro, abbiamo fatto anche un anno fa un approfondimento su questo fiorire di negozi compro oro. Il problema è che sono tanti, tantissimi, e che spesso purtroppo sono state denunciate infiltrazioni della criminalità organizzata, proprio l'Andrangheta nel caso di Milano, a gestire questi negozi. Comunque la Guardia di Finanza ha fatto un'operazione che ha denominato Fort Knox, che è dove gli americani tengono le riserve d'oro. E in 11 regioni gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio, reinvestimento di proventi illeciti, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro e frode fiscale, e tutti i provvedimenti li ha emanati poi la Procura della Repubblica di Arezzo. E sono stati sequestrati anche 500 conti bancari. Veniamo adesso alle notizie della crisi, mentre poi avremo anche una pagina dedicata alla rivolta delle province. Perché arrivano altre notizie sempre sul fronte dell'alimentazione, delle spese per alimentazione in Italia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, diminuiscono, e questa paradossalmente è una buona notizia, è da anni che parliamo di neosobrietà più che di neopovertà in senso stretto, diminuiscono gli sprechi di cibo. E ripeto, questa è una buona notizia, gli sprechi sul cibo sono diminuiti per la prima volta il peso corporeo, adesso questo... Per la prima volta il peso corporeo degli adulti italiani si è ridotto verso livelli più sani. Ora, la notizia la prendiamo, l'Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica, l'ADI, ha realizzato uno studio con 10.000 persone, che si somma a 35.000 interviste in 4 anni. Per la prima volta c'è una crescita dei normopeso, quelli che hanno un peso normale, quello corretto. Sono al 54% rispetto al 51% del 2010 e al 53% del 2011. Molto alte ancora le persone in sovrappeso e obesi, il 43%. Però dice l'Associazione di Dietetica e Nutrizione che praticamente si spende meno per il cibo, si usa un cibo più sano, meno costoso, si pratica più sport, e questo in parte da collegarsi anche all'effetto della crisi economica, mettiamola così, sarà anche un effetto positivo. Tra l'altro la Coldiretti oggi segnala che si vende più pasta, più 3,6%, questo è un dato serissimo invece, più 3,5% nella vendita di pasta e meno 5,5% nelle bistecche, e meno anche il pesce, meno 1%, la frutta meno 1%, sale il pane più 1,3%, questo è un indicatore classico, insomma, di un'attenzione forte anche nei consumi alimentari. Non so se poi la pasta faccia ingrassare meno della bistecca, dipende quando, a che ora si mangia e in che quantità. Detto questo, c'è chi di crisi se ne intende, buttiamola così, e mi riferisco alla Grecia. Duri scontri ieri di fronte al Parlamento, che in nottata ha approvato il pacchetto di austerità, 153 voti a favore, e siamo praticamente, è passato con 2 voti in più rispetto alla maggioranza di 151 voti sui 300 seggi del Parlamento. 100.000 persone manifestavano contro il governo, e oggi i dati sulla disoccupazione in Grecia fanno oggettivamente impressione. 349-238-6666 per i vostri SMS. La ballata dell'euro. Vittorio D'Arold, buonasera. Buonasera a voi. Allora, al di là delle manifestazioni, dicevo, il dato di oggi, record della disoccupazione in Grecia, sale al 25,5% in agosto, ma la cosa che a me ha fatto particolarmente impressione, perché è una percentuale che obiettivamente in Europa non eravamo abituati a vedere da decenni, tra i giovani, cioè tra i 16 e i 24 anni, la percentuale ufficiale di chi è senza lavoro, poi in Grecia c'è il nero, lo sappiamo tutti, però è del 58%, cioè noi in Italia siamo già messi male con il 30% e la Spagna arriva quasi al 35-40%, al 58%, vuol dire che 6 giovani su 10 tra i 16 e i 24 non hanno un lavoro. E poi si apre anche il fronte di Cipro. Vittorio. Sì, esattamente, solo nel 2008 i giovani appunto senza lavoro in Grecia erano solo il 20%, adesso appunto siamo andati al 58%. Questo è il dato che dà il segno di come in Grecia stia arrivando qualcosa che nei paesi, diciamo, sviluppati occidentali non si vedeva dai tempi dell'ultima guerra. Quindi c'è qualcosa che in qualche modo sta cambiando decisamente il modo di vita, la sostanza della qualità della vita delle persone in maniera quasi come ci fosse un regresso a situazioni appunto di paese in di guerra. Beh, ma gli economisti parlano di guerra con non convenzionale, cioè di guerra non fatta con morti e feriti, con armi, anche se anche sul fronte morti e feriti potremmo discuterne, ma di effetto guerra per quello che è poi la vita delle persone e appunto l'economia di un paese. Prego, Vittorio. Esattamente questo. E poi c'è l'altro fatto, appunto queste sono le conseguenze sociali della, diciamo, della crisi, della lentezza appunto con cui si sta arrivando a questo discorso dell'aiuto, no? Perché naturalmente la crisi, nel momento in cui i capitali sono fuggiti, ha lasciato appunto il paese senza capitali e quindi con l'aumento dei tassi e quindi la richiesta di dover chiedere aiuto. Dopo 3 anni che questa crisi è iniziata, abbiamo ancora una lentezza nei processi appunto per affrontare questo che politici, che è veramente insostenibile. C'è ancora appunto adesso dopo questo voto passato con molta difficoltà in Parlamento, c'è stato solo un voto di maggioranza, quindi 151 su 300, quindi una maggioranza che, ricordiamola, ha solo 4 anni di vita alle spalle ma che già vacilla. Ecco, in 3 anni in sostanza la Commissione europea... 4 mesi di vita. Sì, 4 mesi, scusami. 4 mesi, la Commissione europea continua a far presente che se si fosse fatto subito quello che veniva richiesto con il primo piano, cioè aumentare le tasse, ridurre le spese e privatizzare, non si sarebbe arrivato a questi costi sociali che l'austerità invece sta facendo, perché solo oggi arriviamo appunto all'approvazione, badate bene, solo all'approvazione, perché poi c'è tutto il capitolo della cosiddetta implementazione di queste normative. I tagli sono approvati ma non ancora effettivi. Esattamente, sì, ha ragione la Commissione europea. Possiamo aggiungere anche noi per correttezza che se anche l'Europa, legge Germania, si fosse mossa un po' prima nel decidere come salvare la Grecia, tanto di fatto poi questo è successo, avremmo risparmiato un bel po' di cali di borsa, di aumento degli spread, di costi pubblici, anche di costi di interessi pubblici anche in Grecia, a vederla tutta, Vittorio, nel certo, senso che si sono mossi perché... lentamente anche gli europei, abbiamo passato tutto il 2010 e parte del 2011 a ragionare se la Grecia andasse o no salvata, poi quando i mercati ti hanno fatto capire che se veniva giù la Grecia veniva giù l'euro, allora le cose sono cambiate. Comunque chiudo la parentesi, Vittorio. No, ma hai perfettamente ragione, oggi siamo al punto in cui bisogna, tutti sono convinti che bisogna arrivare al terzo salvataggio della Grecia, probabilmente attraverso una nuova ristrutturazione del debito, che è quello che il Fondo Monetario chiede, cioè una ristrutturazione del debito che riduca appunto la massa del debito che è ormai al 200% del PIL. Sì, però qui c'è un ragionamento da fare, Vittorio. Allora, i greci devono spendere meno, rientrare, avere meno evasione fiscale, meno nero, meno privilegi nella pubblica amministrazione che sono incredibili, battono anche l'Italia, battono... però io guardo poi ai fatti. Allora, la Grecia era un malato e i malati vanno curati e non possono continuare a fare la vita di prima, però in questo momento noi al malato continuiamo a prelevare sangue come si faceva nel 1005, nel 1004 quando i cerusici ti mettevano le sanguisughe convinte che questo fosse il modo per estirpare il male, no? Allora, e tutti i dati in prospettiva greci continuano a peggiorare, no? Il PIL andrà in recessione, aumenta il debito, aumenta la disoccupazione. Ma non stiamo in qualche modo lentamente, softly killing, lentamente uccidendo il malato? Chiedo, perché insomma, il dubbio viene. Sì, guarda, proprio le previsioni che ha reso note ieri Olli Rehn, il commissario europeo a Bruxelles, parlano per la Grecia di un meno 7,1 nel 2011, poi è andato a meno 4, poi meno 4,2, poi prevedono solo nel 2014 uno 0,4, ma sono previsioni che naturalmente non ci credono nemmeno loro. Cioè l'avvitamento delle misure di austerity, sommate al fatto che il paese naturalmente non ha una posizione di esportatore, perché non riesce naturalmente a esportare, non ha prodotti, per cui riducendo i salari, riducendo le spese, poi c'è qualcosa, certo, che dall'estero ti aiuta a rimettere a posto la bilancia. Ecco, questo è il problema su cui loro non sono riusciti a intervenire e ancora oggi il Fondo Monetario, che è quello più rigido in teoria, dice attenzione, bisogna in qualche modo allentare, dare più due anni per rientrare, dare una nuova ristrutturazione, cioè tagliare il debito nei confronti della Grecia, perché altrimenti non ce la fanno. La Germania si oppone strenuamente, ancora una volta, perché Schäuble oggi ha detto non ci sarà un accordo, non vedo ancora la situazione tale per un accordo all'Eurogruppo di lunedì, che invece dovrebbe dare i famosi 31 miliardi ai greci, che se no entro il 16 di novembre non hanno più soldi per pagare pensioni. No, ma questo è chiaro, però sto solo ragionando sul il rischio dell'effetto avvitamento, cioè quando tu tagli, aumenti le tasse e tagli la spesa pubblica, fermo restando che la Grecia non poteva continuare a vivere così al di sopra dei suoi mezzi, e lo fai in maniera così brusca e radicale, l'avvitamento ce l'hai già. Vorrei capire quando questo avvitamento poi si può bloccare, oppure quando invece l'avvitamento fa precipitare la malattia stessa, perché quello a cui stiamo assistendo, il rischio è questo, no? Cioè che continui a peggiorare, noi continueremo a aiutarla perché avrà sempre meno soldi, sempre meno consumi, un deficit che aumenta sempre di più. Il deficit, lo dico anche a chi scrive, è un rapporto con il PIL, non è il numero assoluto. Se tu fai crescere il PIL puoi anche avere un deficit più alto, perché si guarda al rapporto più alto come numero assoluto, perché è un rapporto. Se tu continui anche a tagliare il deficit, ma il tuo PIL continua a crollare, puoi anche avere un deficit che è la metà, ma continuerà a essere in rapporto molto più alto e quindi non sostenibile. Ecco il rischio avvitamento. Tu tagli, riduci i trasferimenti, riduci il welfare, la gente spende meno, il PIL continua a calare, il tuo debito in proporzione, il deficit in proporzione aumentano, quindi devi tagliare di nuovo. E se non ricordo male era, secondo Marx, il terzo modello di crisi del capitalismo, quella che poi abbiamo visto nel 29, ma forse il Fondo Monetario Internazionale quel giorno lì era in bagno quando spiegavano cosa capitò nel 29. Vabbè, Vittorio D'Arold, grazie. Cipro, come dicevi tu. Sì, Cipro, per favore, perché Cipro è piccola, però dai. Però sai, proprio perché avevano i bond greci nelle banche di Cipro, hanno avuto l'innesco, appunto il contagio, come diciamo sempre, anche a Cipro, che ha dovuto correre ai ripari e chiedere aiuto. Anche qui c'è una troica che sta arrivando e sta applicando la stessa ricetta: austerity, riduzione appunto delle spese, aumento delle tasse, e anche Cipro, per quanto piccola, si sta riavvitando un'altra volta. E questo è il vero rischio, che se non spegniamo questo incendio che nasce in Grecia, tutte le volte siamo sempre costretti a rincorrere possibili contagi, tra i quali naturalmente la possibilità ultima che i greci escano dall'euro, creando appunto quell'effetto domino che potrebbe far saltare appunto la moneta. Sì, comunque a me sembra, lo dico veramente come osservatore, non ce l'ho la ricetta, guardo quello che sta capitando, mi sembra che qui invece che chiarirsi la situazione e dare alla Grecia un percorso di risanamento, compiti a casa e però anche uscita dal tunnel, qui mi sembra che il tunnel continui a inabissarsi. I dati che noi abbiamo, quando io vedo una disoccupazione giovanile al 60%, 58%, mi chiedo quali saranno i consumi greci del 2013. Tutto qua, vale anche per Cipro, la parte greca, a meno che poi non ci sia una decisione storica che porti Cipro a diventare tutta turca, sto scherzando chiaramente, però vale anche per Cipro. Tra l'altro Société Générale, la banca francese, il colosso francese bancario Société Générale, ha chiuso il terzo trimestre con un calo dell'utile dell'86%, che risente soprattutto delle perdite subite nella cessione della sua controllata in Grecia. Grazie Vittorio D'Arold. Dalla Grecia all'Italia, perché da noi invece i problemi sono altri, non abbiamo problemi greci, abbiamo problemi italiani, ossia la ribellione delle province all'ipotesi non di chiusura vera e propria, di accorpamento. Lo dico già che molti dipendenti delle province avrebbero continuato a fare quello che facevano anche prima. E invece qui siamo alla ribellione. 17:43 minuti, arriveremo tra qualche minuto anche alla borsa, meno 0,60% Milano, meno 0,40% Francoforte, invariata Parigi, Londra meno 0,24%, l'America perde lo 0,20%, particolarmente debole Autogrill meno 3,90% e Mediaset meno 3,40%, molto bene A2A dopo piano industriale più 5,36%, bene anche l'automatica più 3,60%. Prima di arrivare alla borsa però occupiamoci di un tema serissimo che sta portando alla rivolta dei presidenti delle province italiane. Ora, io capisco tutto, ma mi sembrava che l'accorpamento del governo fosse timido, invece sta scatenando un vero e proprio putiferio. 349-238-6666 per i vostri sms. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drecche più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drecche più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Tutte le province italiane, tutte le province italiane faranno ricorso ai TAR contro i tagli varati dal governo contro le province. Lo ha annunciato il neopresidente dell'UPI, Antonio Saitta. È una decisione non più rinviabile, visto che i 500 milioni di tagli imposti alle province non sono più sopportabili. Antonio Saitta, questa è la minaccia, insomma, cosa capiterà altrimenti, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Siamo nella situazione in cui per dare applicazione alla spending review sostanzialmente dovremmo chiudere molte scuole perché non possiamo fare investimenti e probabilmente neppure consentire che le scuole funzionino perché non abbiamo i soldi per il riscaldamento. Cioè siamo arrivati al punto in cui questo tema delle province, che era diventato uno dei grandi temi, quando si toccano i servizi. Abbiamo deciso di alzare il tiro perché questa discussione sulle province, che sembra una discussione puramente, come dire, di ordinamento, in realtà vuol dire i servizi, perché noi abbiamo 12 miliardi di costo che sono per i servizi. Quando ci vengono tagliate le risorse è chiaro che i servizi si riducono. Allora, caro Saitta, massimo rispetto, per carità, però hanno ragione gli ascoltatori, ma perché prima di minacciare il taglio al riscaldamento delle scuole non minacciate il taglio al riscaldamento delle province? No, nel senso, non vorrei mai che capitasse che tagliate il riscaldamento alle scuole e la provincia è ancora col riscaldamento. Allora dite: attenzione, non saremo in grado di far funzionare la provincia, non avremo più il riscaldamento da noi, nei nostri uffici, non avremo più la benzina per le nostre auto, poi casomai le scuole, perché sennò sembra un po' demagogia, un po' populismo, è un sospetto, eh? Poi sentiamo le parole durissime anche del presidente della provincia di Padova, Barbara Degani, e della provincia di Taranto, Gianni Florido. L'Italia è lunga ma è unita in questo grande tema di difesa delle province, altrimenti chiudono i riscaldamenti dei bambini. Dicevo, durissima la risposta di tutte le province che faranno ricorso al TAR. Tra l'altro ci scrivono gli ascoltatori: beh, possono anche tagliare i loro stipendi, e con questa nuovi tagli non avremo più gli stipendi. No, la prima cosa a cui si pensa è lo stop al riscaldamento delle scuole e meno lezioni, sapendo che in questo modo vai a toccare poi e a minacciare quelli che sono i genitori, gli elettori. Iniziamo col dire che con questi tagli non vi sarà più riscaldamento nelle sedi delle province. Vedrete che la reazione sarà comunque diversa. Giustamente, poi magari vorrei sapere che ne pensa il presidente della provincia di Treviso, cito una città a caso, dove hanno appena speso 80 milioni di euro per la nuova sede. No, giusto per capire, lì il riscaldamento lo terrete o chiuderete il riscaldamento delle scuole, ma nella nuova sede ad 80 milioni di euro il riscaldamento ci sarà. Comunque, durissimi, tutti, da nord al centro al sud. Barbara Degani, presidente della provincia di Padova, sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi, e subito dopo, sempre al microfono di Alessandra Schepisi, il presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido. La riorganizzazione è dei servizi statali sul territorio, che è un attacco al pubblico impiego in maniera diretta. Lo Stato doveva riorganizzarsi e quindi doveva sburocratizzare, lo fa mischiando il problema delle province. Quindi, siccome tutti i servizi statali sono su base provinciale, per la prima volta in questo decreto c'è la riorganizzazione degli uffici statali su base provinciale, quindi prefetture, questure, archivio di Stato, cioè tutta una serie di cose che... Secondo lei andavano fatte? No, che sicuramente andavano fatte, ma che dovevano essere scisse dall'entità provincia, cioè ci sono due cose completamente diverse. Ma lei è d'accordo con le iniziative di mobilitazione che le province stanno preparando? Allora, alcune azioni di mobilitazione secondo me si devono fare per dimostrare anche ai cittadini quali sono i servizi che noi diamo, perché molto spesso c'è una grandissima ignoranza su questo. E quindi per quanto riguarda le scuole piuttosto che le strade, piuttosto che in materia ad esempio noi di lavoro e di urbanistica, stiamo sicuramente mobilitando la popolazione, perché ovviamente ne viene meno servizio. Però è una questione diversa rispetto a quella che riguarda, voglio dire, la riforma, è molto più legata alla spending review e quindi alla impossibilità di poter spendere i soldi per effettuare questi servizi. Il problema è che il governo ha scelto di fare una grande operazione, diciamo, importante per il riordino, perché noi abbiamo sempre condiviso la necessità di riordinare, però molto di facciata, perché si è inserita nel clima del risparmio sulla casta, no? Però il problema vero è che le province oggi, quelle che restano, non hanno i soldi per gestire l'ordinario. L'ordinario, facciamo degli esempi perché i cittadini capiscono. Qual è l'ordinario che tocca la vita di tutti i giorni dei cittadini per quello che riguarda le province? Le strade, le scuole, la formazione professionale, le risposte alle imprese per le autorizzazioni sui temi ambientali, sulla gestione delle acque. Cioè, allora, questi servizi le province non sono più in grado di erogarli, quindi se tu chiudi le province e pensi di fare un'operazione di risparmio solo perché mandi a casa 1000 amministratori, fai demagogia. Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Ora io lo dico, visto che Barbara De Gani è il presidente della provincia di Padova, glielo dico in vento, mi non ho capito niente. Nel senso, non ho capito tutto il ragionamento fatto su a chi dare le competenze, anche 1000 amministratori che se ne vanno. Ho capito, ci sarà un risparmio, non ho capito perché in automatico le strade non vengono più, non abbiano più manutenzione, le scuole non abbiano più riscaldamento, anche perché io, da quello che ho capito, non ci saranno province chiuse, ci saranno province accorpate, però ho capito male evidentemente. No, infatti ci saranno province accorpate. Diciamo che prima di tutto ricordiamoci il clima di questa trasmissione 10 minuti fa, quando stavamo parlando della Grecia, così capiamo che, bravo, come dire, su questi temi si può giocare, si può scherzare, si può far politica fino a un certo punto, perché poi i problemi sono quelli. Qui si intrecciano, diciamo così, due interventi del governo. Uno, quello che ricordavi tu poco fa, degli accorpamenti, cioè ci si è inerpicati in questo giochino dei confini che poi alla fine non modifica. Che tutta Italia segue con apprensione, chiaramente. Sì, no? E che poi, voglio dire, presta il fianco a tutta una serie di critiche anche abbastanza ridicole, perché noi di Frosinone non abbiamo nulla a che fare con quelli di Rieti, è una questione di identità storiche, eccetera, molto bene, ma questo con l'amministrazione c'entra fino a un certo punto. E i tagli, e quelli citati da Saitta, il presidente di Torino, i tagli lineari, diciamo così, al fondo di riequilibrio, con il risultato che non si risolve il problema fondamentale. Se noi adesso scendiamo in strada e chiediamo a 10 persone che cosa fanno le province, a cosa servono, 9 almeno di queste 10 non sapranno darci uno straccio di risposta, perché c'è il problema, come dire, che non si è risolto il carattere né carne né pesce delle province, che condividono un po' di funzioni con i comuni sulle scuole, un po' di funzioni dello Stato sulle strade, un po' di funzioni sul mercato del lavoro, che però non ha avuto, come dire, non hanno avuto grande risultato. E quindi, come dire, si arriva a questa battaglia un po' di retroguardia, di mantenere, salvaguardare e così via identità storiche, Pisa, Livorno, voglio dire, che nulla hanno a che fare poi con la concretezza dell'amministrazione, e non si va a fondo dei problemi. Qui è mancato un po' il coraggio, se posso dire, anche dal lato del governo, perché è molto divertente, diciamo così, discutere dei confini delle nuove province, perché Alessandria va con Asti e non va con Novara, e se ne può parlare per ore. Il paese si interroga. Il paese si interroga. Tuttavia non si risolve il problema, e il grosso delle spese rimane sostanzialmente, a parte che è quasi tutta spesa corrente ormai, rimane quasi inalterata. La spesa corrente vuol dire anche la gestione dei costi degli stipendi, degli amministratori, della funzione. Spesa corrente vuol dire non investimenti, non investimenti, no, per non investimenti. È che stai facendo la strada o il nuovo edificio scolastico, perché andiamo a vedere, domani ne parleremo, quanta parte della spesa delle province viene gestita per gli affitti, il riscaldamento degli stabili delle province, i dipendenti, i 1000 dirigenti che salterebbero, e non mi dite che però bisogna tagliare il riscaldamento perché è terrorismo politico. Abbiate il coraggio di fare una battaglia per la difesa delle province senza far terrorismo mediatico e politico. I bambini andranno a scuola col cappotto. Sì, attenzione però, perché poi i genitori vengono a cercare voi. Comunque, Gianni, grazie. Domani torneremo sul tema anche con te, perché andremo a verificare quanta parte viene spesa in spesa corrente e quanta viene investita in scuole e strade, così vediamo se ha ragione Saitta o ha ragione il governo. Grazie Gianni Trovati. Confermo che domani con Gianni Trovati racconteremo, magari scopriremo cose interessanti, quanta parte dei bilanci provinciali viene utilizzato per investimenti, per le strade, anche per le spese correnti, quali riscaldamenti delle scuole, e quanta parte serve a mantenere le province stesse. Fermo restando che nessuno le sta chiudendo, le stanno accorpando, quindi chi perderà il posto saranno soprattutto le cariche politiche. Da questo punto di vista cerchiamo anche di dire le cose come stanno, non il dipendente della provincia che semplicemente vedrà accorpato il suo ufficio, ma non è lì che arriva il taglio. Comunque, chiuso con le province, apriamo con la borsa. Meno 0,60% Milano, Parigi invariata, Francoforte meno 0,40%, Londra meno 0,27%, l'America meno 0,25%. In questo momento molti dati societari oggi a muovere i titoli. Dati societari per Autogrill, ma anche sul fronte opposto per A2A. A2A è il titolo migliore, l'utile nei primi 9 mesi è cresciuto del 48%, i ricavi vanno a 4 miliardi e 9. Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A2A, ma anche l'Automatica e Azimut, l'Automatica più 3,60 e l'Azimut più 3,20, molte trimestrali oggi sul mercato. Sul fronte opposto, dicevo, Autogrill meno 3,90, ma facciamo poi anche Mediaset e Saipem meno 3,30%. Sì, allora oggi, come dicevi tu, a Piazza Affari hanno ottenuto banco soprattutto i conti trimestrali, o comunque l'attesa per i risultati che saranno pubblicati domani e la prossima settimana. A2A ha beneficiato di ricavi o margine operativo lordo superiore alle attese degli analisti, mentre l'utile dei 9 mesi è stato pressoché in linea ma alle stime, e ha detto di aspettarsi per fine anno di chiudere inutile l'esercizio con una marginalità industriale in crescita. L'Automatica ha guadagnato il 3,6% e anche qui ha beneficiato dei conti. Gli analisti hanno parlato di un margine operativo lordo e di un utile superiori alle attese, conti positivi anche per Buzzi Unicem, che ha mostrato un utile in crescita del 40,35% a 85 milioni e grazie ai conti ha alzato appunto le stime di margine operativo lordo per la fine dell'anno. Per contro i conti, ma soprattutto il taglio delle stime di EBITDA, ha penalizzato Autogrill, che ha perso il 3,90%, ha realizzato la peggiore performance sul paniere principale milanese. La società prevede per fine anno un margine tra 585 e 590 milioni, mentre stime precedenti erano di circa 600 milioni. Per quanto riguarda invece l'attesa per i conti, l'attesa appunto ha penalizzato società come Pirelli, che ha perso il 2,80%, comunicherà i conti il prossimo 12 novembre, e Mediaset, che ha perso il 3,5% circa in vista dei conti il prossimo 13 di novembre. Eh sì, un'intera seduta orientata dalle trimestrali, a seconda che siano state deludenti o invece migliori delle attese, e anche delle attese sui conti. Già ricordavi di Pirelli, c'è un altro titolo che oggi proprio su questo si è mosso, e anche non poco, Mediolanum, meno 1,43%, e lì però i conti sono stati buoni, più 380% l'utile, ottimi direi. 291 milioni di euro nei primi 9 mesi dell'anno, eppure il titolo ha un po' sofferto. Il titolo in effetti ha perso terreno, ha perso l'1,4%, probabilmente si tratta di vendite, come si suol dire, sulla notizia, anche perché oltre a questa enorme crescita dell'utile, la società ha deciso di distribuire un acconto sul dividendo di 0,1 euro per azione in pagamento a partire dal 22 novembre, e solitamente quando le aziende distribuiscono un acconto sul dividendo vengono apprezzate dal mercato, poiché si tratta sostanzialmente di un rendimento ulteriore per gli investitori. Tra l'altro oggi male i talcementi, meno 5,56%, anche qui ci sono gli obiettivi, notizie diciamo relative al gruppo e relative al 2012. Sì, i talcementi ha infatti peggiorato le prospettive. Per fine anno stimo margine operativo lordo in calo del 9% a 635 milioni di euro. Ricordiamo che la società ha chiuso i 9 mesi con un utile in flessione dell'83,7% a 17,1 milioni. Benissimo, invece il miglior titolo Arena, più 27,78%. Lì c'è una notizia sul concordato preventivo, no? Sì, in questo caso non si tratta di conti, ma dell'ok dei creditori, ma al concordato preventivo, una notizia che è arrivata in questi giorni, di cui quindi, come vediamo, il titolo ne ha beneficiato. Mm-mm. Ebbene, anche Alcatel-Lucent più 11%, e poi primi sui motori più 6,34%, Interpump più 5%, male Saras meno 6,36%, Premuda meno 5,92%. Grazie a Livia Zancaner. Cito anche Enel, perché volete sapere degli energetici. Eni ha perso lo 0,40%, Terna meno 1%, Enel ha perso il 2%, ieri la controllata cilena ha fissato un aumento di capitale, e Saipem meno 3,24%. Dicevo, grazie Livia Zancaner. 18:17, è arrivata una notizia che vi leggo, anche se parliamo di Cina non di America. Per la prima volta McDonald's in 9 anni ha visto calare le sue vendite nel mese di ottobre. Big Mac perde fan negli Stati Uniti, sostanzialmente la domanda è modesta, in Europa soprattutto le vendite in ottobre sono scese del 2,2%, e appunto è la prima volta che McDonald's da 9 anni a questa parte registra una flessione nelle sue vendite. Andranno invece molto bene, immagino, le vendite in Cina, ma in questo momento il tema sulla Cina riguarda il cambio della nomenclatura, dei vertici del partito. I nuovi dirigenti Xi Jinping e Li Keqiang dovranno trovare un accordo con i membri del Politburo, dei 7 membri del Politburo, ma oggi dichiarazioni molto molto alte, anche forti, del presidente, nonché segretario del Partito Comunista Cinese, Hu Jintao. L'obiettivo che Hu Jintao ha posto al paese è raddoppiare il PIL, e quindi il prodotto interno lordo e il reddito pro capite entro il 2020, raddoppiarlo, anno in cui il 2020 tutta la popolazione sarà coperta dall'assistenza sanitaria pubblica. E poi ha continuato Hu Jintao, bisogna aumentare la domanda interna, la Cina ha un problema che se vuole continuare a crescere in questo modo non può solo pensare di esportare, anche perché l'Europa è ferma, l'America rischia col fiscal cliff di fermarsi o comunque di spendere meno, devono iniziare a consumare di più i cinesi stessi. E Hu Jintao, la corruzione in Cina può provocare l'affondamento del partito e dello Stato. Ricorderete gli scandali, gli ultimi scoppiati e che hanno coinvolto altri dirigenti del partito, primo fra tutti Bo Xilai. Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche Alberto Forchielli, una voce, un nome che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, presidente dell'Osservatorio Asia. Buonasera, sì. Forchielli. Caracciolo, detto in maniera un po' brutale, al di là del nostro provincialismo o del nostro asse atlantico, sono più importanti i rinnovamenti ai vertici cinesi in questo momento o, diciamo, tutta l'enfasi che abbiamo messo su Barack Obama? La risposta è nella domanda, direi. È ovvio che quello che in questo momento può cambiare il corso degli eventi è il rinnovamento in Cina, e il discorso piuttosto forte e drammatico che lei ha citato di Hu Jintao promette che il cambio sarà piuttosto importante e probabilmente faticoso. Immaginare che il PIL raddoppi, per essere precisi, dal 2010 al 2020, cioè immaginare un tasso di crescita del 10% ogni anno, è evidentemente piuttosto fantastico, almeno vista la situazione attuale. ma quello che conta, io credo, è l'obiettivo di costruire finalmente una qualche forma di Stato sociale in Cina, senza del quale non si può parlare di stabilità e di crescita e nemmeno di domanda interna. Cioè la regola per cui se tu hai l'assistenza sanitaria per tutti, pubblica, riesci anche ad avere una spesa più alta, cioè avere dei consumi più, mi passi il termine, occidentali, quello poi dovrebbe portare a un altro passaggio che mi è sembrato importante, Caracciolo. Esatto, c'è un fatto, cioè che oggi i cinesi, che non sono tutti ricchi come qualcuno immagina, sono costretti a mettere da parte il necessario per le cure mediche, per la scuola, per mandare i figli avanti, perché non c'è quel minimo di assistenza che c'è nel resto del mondo sviluppato, almeno dovrebbe esserci. Eh sì, in Cina tra l'altro l'istruzione e la sanità costa tantissimo, costa quasi a livelli, diciamo, paragonati con il potere d'acquisto a livelli americani, costa anche molto per gli stranieri che vogliono vivere in Cina. Per quello che riguarda invece i nuovi equilibri, Caracciolo, all'interno della nomenclatura, abbiamo visto insomma gli scandali che hanno travolto Bok Xi-Lai, l'ammissione che la corruzione è endemica e rischia di creare l'affondamento del partito e dello Stato, cioè che detto dal segretario del Partito Comunista Cinese non è poca roba, e i nuovi dirigenti Xi Jinping e Li Keqiang che dovranno trovare una forma di accordo con il Politburo. Caracciolo. Beh, è chiaro che tutte queste ultime vicende, a cominciare da quella di Bok Xi-Lai, sono avvolte nel mistero e la verità vera non la conosceremo mai, però è chiaro che è in corso una lotta ai ferri corti dove al di là delle questioni ideologiche o della strumentalizzazione della memoria di Mao piuttosto che la sua demonizzazione sono coinvolti interessi piuttosto concreti, in particolare il ruolo delle aziende di Stato, il ruolo dei cosiddetti principi, cioè dei figli di, per capirci, della nuova nomenclatura cinese e della loro, diciamo, tendenza ad arricchirsi in maniera piuttosto informale, e quel problema che Hu Jintao sottolineava come corruzione, che riguarda in realtà proprio i vertici del partito, non solamente la società in senso lato. Beh, quindi adottano anche alcuni modelli occidentali, diciamo, se, certo, se così possiamo dire, parlando dalla prospettiva italiana. Allora, Alberto Forchielli, una volta si diceva, insomma, la lotta politica in Cina è tra il clan, passami il termine, di chi sta a Shanghai, dell'ex sindaco di Shanghai e poi e quelli di Pechino. Mi sembra che le carte si siano un po' rimescolate, però vorrei da te conferma, e se sei d'accordo che oggettivamente il puntare sulla domanda interna, sui consumi, potrebbe essere una svolta anche per noi e quindi per le prospettive della crescita economica mondiale nei prossimi anni. Sì, in Cina c'è la sinistra e c'è la destra all'interno del partito, ci sono due correnti principali, la sinistra che dice troppa diseguaglianza, torniamo all'impresa di Stato, torniamo a un modello più socialista, invece la destra che dice no, dobbiamo andare avanti con le riforme sostanzialmente, quindi non c'è più la divisione geografica, è leggermente più sfumata. Per il che riguarda la propensione al consumo, ormai sono 6 anni che si dice in Cina, 7 anni, ormai sono diventati come i nostri partiti, e invece il consumo in percentuale del PIL scende invece che calare, era il 40, 5 anni fa è arrivato al 34,5. Per cui, mentre invece il consumo dovrebbe essere qualcosa intorno al 60% del PIL, però vuol dire spostare $1,5 trilioni da una parte e dall'altra, che è una manovra non economica, una manovra politica. È una cosa molto molto pesante. Per il momento predicano benissimo la roba di Hu Jintao, sono anni che la sento, si legge di giornale tutti i giorni, capito? Però non ci riescono. Non ci riescono perché vuol dire togliere il potere alle lobby, far pagare i dividendi alle imprese di Stato, togliere, capito, i soldi degli investimenti agli investment bureau delle province, capito? Vuol dire cambiare modello economico. No, le province, dire... di nuovo le province no, ci ho fatto mezza puntata, adesso vabbè, le province cinesi. È difficile tagliare le province in Italia, immagino anche in Cina. Sì, no, perché cioè, voglio dire, per cui... spostare, mentre tutti gli altri paesi le tigri dell'Asia sono riuscite a sono partite con forti investimenti, poi l'investimento sul PIL è sceso al 25%, i consumi al 60%, in Cina questo non sta succedendo e sta andando in senso opposto. Però vuol dire sconfiggere delle lobby, non basta dirlo, capito? C'è la lobby dei costruttori, c'è la lobby delle banche, c'è la lobby delle imprese statali, capito? Sì, a me queste affermazioni qui lasciano... Sì, ho capito, l'abbiamo capito tutto, lo scrivono tutti, però non sono capaci perché c'è un sacco di gente... La sento leggermente scettico. Molto scettico. Ecco, vorrei capire se il direttore di Limes condivide che poi al di là delle dichiarazioni di intenti molto politiche in questo tutto il mondo e paese, in Cina c'è una resistenza dovuta alle lobby interne, ai poteri... e gruppi di interesse, forse anche una tendenza in chi si è appena arricchito a risparmiare più che a spendere tutto, e quindi sarà molto più difficile avere una Cina che diventi un centro di consumo, che noi ci auguriamo perché vorremmo esportare anche di più in Cina. E poi in tutto questo come Caracciolo collocheranno i rapporti con Barack Obama? Non è un mistero che il Partito Comunista Cinese preferisse forse Romney. Barack Obama è considerato meno affidabile, troppo vicino a Taiwan. Caracciolo. Sì, allora cominciamo dalla fine. Certamente la nomenclatura cinese ha tifato per Romney ed è rimasta piuttosto scottata e delusa dalla vittoria di Obama. Obama non è considerato un leader affidabile, come lei ha detto, a Pechino, perché vende armi a Taiwan, perché secondo i cinesi immagina una strategia di contenimento con tutti i paesi dell'area che devono impedire alla Cina di costruirsi la sua sfera di influenza e così più e così via. Quindi penso che la tensione latente fra la presidenza americana e quella cinese possa diventare ancora più acuta nel prossimo futuro. Quanto alle possibilità di realizzare queste grandi parole d'ordine, beh, è evidente che siamo di fronte a una società, per usare un termine banale, complessa. Noi parliamo sempre di democrazia, autoritarismo, ma la questione fondamentale è la poliarchia, cioè il fatto che ci sono una quantità di poteri che si interdicono l'uno con l'altro e quindi rendono abbastanza improbabili questi grandi progetti. Poi naturalmente si tratta di indicare una direzione politica, diceva bene Forchielli, non è una questione tanto economica quanto politica, ma il problema è gli ordini dall'alto che calano giù per le vie più rapide verso l'esecuzione esistono solamente nei manuali di politologia, nella realtà la cosa è molto più complessa e le bande che si affrontano ormai anche con metodi criminali all'interno del Partito Comunista e nelle varie province sono piuttosto agguerrite. Beh, è una situazione così più italiana che cinese. Forchielli, in una battuta, perché ho 20 secondi, ma le caste o i centri di potere a cui faceva riferimento Caracciolo, secondo lei sono più forti in Italia da battere i poteri forti, le poliarchie o in Cina? Cina adesso. In Cina adesso? Ah sì. Ah, beh. No, ma qui all'Italia fanno ridere. Rispetto a quelli cinesi, vabbè. Ci consoliamo con questo, visto che domani dobbiamo fare una puntata sulle province, su quanto spendono le province italiane in spesa corrente o in investimenti. Grazie al direttore di Limes Alberto Caracciolo, Lucio Caracciolo, grazie al presidente di Osservatorio Asia Alberto Forchielli. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.